America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Grande finale hollywoodiano a sorpresa per la serata degli Oscar. C'è stato un errore. Avevano annunciato come vincitore del miglior film La La Land e poi, mentre erano tutti sul palco per fare discorsi, anzi i discorsi li avevano già fatti i produttori di La La Land, gli attori e tutto il cast, e si è scoperti che avevano dato la busta sbagliata al povero Warren Beatty, il quale, come dire, non è che ci ha fatto una gran bella figura, però non è stata colpa sua, poveretto. Gli avevano dato la busta in cui si diceva che Emma Stone vinceva per La La Land. Ma c'è stata una grande confusione, un colpo di scena, nessuno ci credeva. Poi a un certo punto Jordan Horowitz, che è il produttore di La La Land, dopo che aveva ringraziato la moglie, aveva fatto questi discorsi strappalacrime, realmente commosso, e questo film anche ci deve far dimenticare i problemi, eccetera, eccetera, prende il microfono in mano e dice: c'è stato un errore, non è uno scherzo, il vero vincitore è Moonlight di Barry Jenkins. Che venga Barry, venite su, vi voglio dare io stesso la statuetta. Devo dire, una cosa così ancora non l'avevamo vista. Ha portato, come dire, un tocco di naturalezza a questi premi degli Oscar che sono così rigidi, tutto deve essere secondo il copione. E qui, altro che copione, una vera gaffe nel senso classico della parola. Ecco, detto questo, ci sono due elementi. Il primo elemento è che, il vincitore del miglior film, Moonlight, è la storia struggente con un protagonista che cresce e vive in un ghetto americano, un film dunque che parla dei problemi delle minoranze afroamericane, ma c'è stato anche premio per il miglior attore non protagonista a Mahershala Ali e poi per Viola Davis, miglior attrice non protagonista per il film Fences. Dunque, ecco, direi che tutte le polemiche che sono nate un paio d'anni fa perché gli Oscars so white, gli Oscar erano tutti bianchi, non erano stati neppure nominati degli attori e registi afroamericani, direi la cosa a questo punto è archiviata. Passiamo invece a La La Land di Damien Chazelle. Ecco, ha comunque dominato la serata. Migliore fotografia, scenografia, colonna sonora, canzone. Chazelle, 32 anni, ha avuto la statuetta per la miglior regia. Emma Stone, quella per la miglior attrice. In totale ha raccolto 6 premi Oscar. Aveva avuto, pensate, ben 14 nomination, che è un record condiviso, perché non è mai stato superato per ora questo numero. Per esempio Titanic aveva anche lui avuto 14 nomination. Ecco, vorrei soffermarmi un momento su La La Land, perché ho letto delle cose, devo dire, proprio su Venerdì di Repubblica, un attacco come se fosse un musical di seconda classe, di seconda categoria, e devo dire questo è un film molto importante per chi vive in America, per chi si trova in questo momento in cui la tensione è altissima, in cui il paese sembra fare un passo indietro rispetto ai suoi valori. Ecco, avere un film di questo genere, un film romantico, una storia d'amore, un film ingenuo, innocente, ha rappresentato davvero una grandissima freschezza, è stato come aprire una finestra per poter respirare un'aria buona. Ecco, questo va tenuto presente secondo me, a parte il fatto che non condivido quello che scriveva l'autore di questo articolo, secondo cui non era comunque un bel film, non era un bel musical. No, è un bel musical, c'è una bella musica e c'è una bella storia, e dunque ha meritato sicuramente gli Oscar che ha avuto. I'm sorry I'm not with you tonight. My absence is out of respect for the people of my country and those of other six nations whom have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the U.S. Ecco, un momento importante quando è stato annunciato il miglior film straniero, che è andato al film The Salesman di Ashar Farhadi, il regista iraniano che tra l'altro aveva già vinto un Oscar. Ebbene, non è venuto, e la persona che per lui ha ricevuto la statuetta ha detto: io leggerò questo messaggio a nome di Farhadi, ha deciso di non venire nel rispetto dei suoi connazionali, ma anche dei cittadini degli altri 6 paesi che sono stati messi al bando dagli Stati Uniti d'America. Ecco, direi un messaggio molto forte anche sul piano politico, questo degli Oscar che dà la statuetta a un iraniano che è in lista nera, o sarebbe in lista nera secondo l'amministrazione Trump. I now pronounce you husband and wife. Kiss the bride. He's Denzel, so it's legal. Grande sorpresa, a un certo punto Kimmel, il presentatore, ha introdotto in sala un gruppo di turisti che non sapevano di arrivare al Dolby Theater. Sono questi turisti che girano su questi autobus alla ricerca di celebrità e di attori. Che cosa hanno fatto? Si sono messi d'accordo con la compagnia dell'autobus, è stato dirottato proprio al teatro degli Oscar e ignari questi signori e signore sono entrati, ci sono ritrovati nel teatro. E la scena che ho fatto sentire è di Vicky Mines, dice che il suo attore preferito è assolutamente Denzel Washington, che era seduto lì dietro, ed è lì col suo fidanzato Gary Cole, si sposeranno a luglio. A quel punto Denzel Washington si alza, li abbraccia e dice: vi dichiaro marito e moglie. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!